Al pubblico della poesia, che è il titolo Il pubblico della poesia, appunto, celebre dell'antologia di Berardinelli e Cordelli, uscita nel 1975, andrebbe, ma non da oggi, da qualche tempo, sostituita l'espressione il pubblico dell'economia della poesia, quindi il pubblico del successo economico della poesia. Effettivamente, l'editoria grande. A volte anche la media, a volte anche la piccola si sostiene con il lavoro non pagato, sottopagato, addirittura facendo pagare gli autori. Si sostiene ovviamente anche con lo sfruttamento degli stagisti, con il lavoro in nero, con il precariato e attraverso turnover e licenziamenti. Spesso, a parte alcuni quadri molto in alto nella catena di produzione, e a volte neanche quelli, la possibilità di stampare un libro è è l'elemento finale di una serie, di una catena che vede appunto la precarizzazione del lavoro come fondamento. Quindi si sostiene inoltre poi la grande editoria attraverso la grande distribuzione chiedendo il 60% del prezzo di copertina del libro. E la distribuzione trattiene il 60% del prezzo di copertina del libro, quindi anche questo erode le possibilità economiche sia delle case editrici stesse sia della libreria, e non parliamo poi degli autori. A volte poi case editrici e distributori coincidono e di conseguenza la massimizzazione dei profitti è totalmente a favore dell'editore barra distributore. Talvolta alcune case editrici, nonostante abbiano molti tipi di guadagno attraverso gli strumenti che abbiamo appena detto, si avvalgono anche di fondi universitari, fondi regionali, partecipano a bandi, a concorsi che magari per la loro posizione anche politica riescono a vincere e di conseguenza arricchiscono il proprio catalogo anche attraverso sostegni di questo tipo, per esempio un sostegno tra i meno sporchi, se vogliamo, anzi legittimi, decisamente legittimi, è il sostegno alla traduzione che alcuni paesi danno all'Italia quando, editori italiani, quando questi decidono di tradurre un autore straniero, appunto. Tutto questo costituisce, per quanto riguarda il mondo della poesia, se ancora qualcuno si interessa a quello. Personalmente mi interesso molto di più alla post-poesia. Tutto questo sostituisce, quindi, nel momento in cui il libro arriva in scaffale, il pubblico della poesia al pubblico dell'economia della poesia. Perché quella che arriva in scaffale è la poesia che ha avuto la forza economica di arrivarci, che è stata, diciamo così, la prima o tra i primi, tra le prime entità a raggiungere lo scaffale per via, attraverso una corsa che ha sostanzialmente smarrito delle regole minime di correttezza e di eticità, semmai ne ha avute il contesto. Quindi propongo di cambiare l'espressione del pubblico della poesia è la terza volta che la cito, espressione è il pubblico dell'economia della poesia.